La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 123. Ciascuna regione ha uno statuto che in armonia con la Costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di 2 mesi. Per tale legge non è richiesta la posizione del visto da parte del commissario del governo. Il governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora, entro 3 mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta un 50esimo degli elettori della regione o un 1/5 dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali. L'articolo 123 riguarda lo statuto regionale. Ciascuna regione ha un suo statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Anche questo è un articolo modificato nel 2001, un articolo modificato nel senso quasi federale, cioè dando più potere e più spazio alle regioni. Ed ecco allora che lo statuto regionale diventa una piccola Costituzione, perché nel testo originario della Costituzione gli statuti regionali erano degli atti sì autonomi della regione, ma venivano approvati da una legge dello Stato, quindi diventavano una legge dello Stato in una forma di controllo molto forte e molto penetrante. Invece, con la riforma del 2001, si è completamente cambiato il modello, perché oggi la regione emana direttamente il suo statuto. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in 2 deliberazioni successive adottate a intervallo non minore ai 2 mesi. Questa modalità di approvazione dello statuto ricorda molto quella della legge costituzionale, della legge di revisione costituzionale di cui l'articolo 138, doppia deliberazione e maggioranza speciale. E anche sui controlli successivi siamo molto vicini a quello che è il modello della legge costituzionale. Infatti lo statuto può essere sottoposto al referendum popolare quando ne faccia richiesta entro 3 mesi un 50esimo degli elettori. E ancora, il governo può promuovere una questione di costituzionalità impugnando lo statuto entro 30 giorni dalla pubblicazione. Quindi la riforma del 2001 rende lo statuto un atto del tutto autonomo della regione. Atto autonomo da approvare con maggioranze speciali, perché non è una legge ordinaria, ma è comunque una legge di maggiore importanza e che può subire controlli popolari e da parte della Corte Costituzionale.